Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, allora noi andiamo a incontrare, come ogni anno, un appuntamento fisso oramai, una delle più grandi scrittrici italiane, Dacia Maraini, che anche quest'anno si cimenta nell'organizzazione del Festival Nazionale Teatro di Gioia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, di che cosa parla questo festival? Beh, il festival quest'anno è dedicato ai ragazzi che sono morti nel terremoto dell'Aquila, proprio agli studenti. E in special modo una ventenne che si chiama Giulia Carnevale, che è morta schiacciata, purtroppo giovanissima, stava preparando la sua tesi di laurea, ecco, è dedicata a lei. Infatti l'ultima sera ci sarà proprio una lettura di alcune sue pagine di diario messe insieme da me. Poi abbiamo il 9 agosto Arnaldo Ninchi e Enrico Baroni in Pirandello, Uomo dal fiore in bocca, e poi c'è Covid tabacco fa male, e poi il 10 agosto La notte dei giocattoli, che è uno spettacolo per bambini, anche questo è ispirato a una favola antica in cui di notte i giocattoli vivono, no? Diventano più vivi degli esseri umani, e la bambina che dorme rimane sorpresa in mezzo a questi giocattoli che così prendono vita e recitano ognuno una parte sua. E poi l'ultimo, l'11 agosto, è proprio dedicato a Giulia, a questa Giulia, questa ragazza morta prematuramente all'Aquila in una casa che era proprio di fronte alla casa degli studenti. E quanti anni aveva? Aveva 21 anni, era una ragazzina piena di vita, solare, una ragazzina che molto generosa. Fra l'altro la cosa curiosa è che lei è morta schiacciata, non è rimasto niente di lei, però la macchina sua è rimasta aperta, cioè è rimasta fuori, è rimasta integra, e nella macchina c'era il suo computer con i disegni di un asilo che lei stava disegnando perché appunto si stava laureando in architettura, ed è questo asilo in forma di libro, è una cosa molto bella, e l'amministrazione locale, i genitori hanno voluto costruire questo asilo in forma di libro, che effettivamente esiste. Ecco, noi ci siamo riferiti a questo personaggio di ragazza morta in maniera tragica per ricordare tutti gli studenti che sono morti, e anche in vista del processo che adesso si farà a settembre su appunto chi sono i responsabili che hanno rassicurato la popolazione mentre dovevano insomma dirgli di andare via dalle case, invece gli hanno detto no, state tranquilli, non succederà nulla, invece poi sono morti sotto anche perché tra le altre cose questo sciame sismico, no? C'era già giorni prima del terremoto, questo è quello di cui si discute. Era mesi che c'erano questi sciami. Senta, potevano dire sì, noi non lo possiamo sapere, perché nessuno può sapere esattamente l'ora di un terremoto, ma neanche il contrario. Certo. Quindi uno deve prevedere, dire no, noi non lo possiamo sapere, però potrebbe anche succedere. Invece loro hanno rassicurato la popolazione, e questo è stato un gravissimo errore. No, sappiamo che i terremoti non sono prevedibili, però in quel caso c'erano state talmente tante avvisaglie. Certo, bisognava almeno prevenire. Dacia Maraini, io vedo che lei di tutto questo festival ha scritto ben 3 pièce. Ecco, quante ore scrive al giorno? No, ma alcune sono delle cose già fatte tempo fa, che sono state riprese. Questa, per esempio, La notte dei giocattoli è una riedizione di uno spettacolo di qualche anno fa per i bambini. Però all'incirca la sua giornata, la giornata di una scrittrice. Io mi alzo presto e scrivo tutto il giorno, insomma, poi mi tengo il tempo per fare una passeggiata, per fare la spesa, per cucinare, però poi scrivo, perché questo è il mio mestiere, non so fare altro, quindi scrivo. Senta, l'ultimo suo libro è La seduzione dell'altrove, sbaglio? Sì, sì, e di che cosa parla? Edizione Rizzoli. Parla dei viaggi, racconti di viaggi che ho fatto in tutto il mondo, insomma, quindi dal Giappone all'America, dalla Cina a Bangkok, cioè, tantissimi viaggi che ho fatto in giro per il mondo. Ecco, invece quello che tornando allo spettacolo Clou, che è appunto questo su Giulia, quando il processo si aprirà, lei pensa di essere in aula quel giorno? Non lo so, non lo so, non lo so. sinceramente, ma certo mi piacerebbe, se potrò lo farò, però io la mia testimonianza la do in questo modo. Certo, quanti erano i giovani che sono morti nel terremoto? Sono più di 48 ragazzi sono morti, quindi tanti. Tanti, no, e di cui molti dentro proprio la casa dello studente. Sì, la casa dello studente, quasi tutti, soprattutto la casa dello studente, ma anche intorno, altre case, perché per esempio questa ragazza viveva in una casa vicina, non era la casa dello studente proprio, però una casa di fronte che apparteneva all'università. E che è crollata lo stesso. Sì, crollata lo stesso. Lei adesso si trova a Borgo Gioia Vecchio, in provincia dell'Aquila, dove è proprio il festival, il Teatro di Gioia. Com'è la situazione invece all'Aquila? Lei c'è andata, ha passeggiato? Sì, sono andata tante volte, ci vado spesso, ci sono molti amici anche lì. E purtroppo l'Aquila è un guaio, perché questo lo dicono tutti quelli che hanno patito dei terremoti. La ricostruzione bisogna farla subito, bisogna cominciare subito, perché se si rimanda, si puntellano le case vanno in rovina, capisci? È molto difficile dopo ricominciare a ricostruire. La ricostruzione, certo, alcune case se sono inagibili totalmente vanno buttate giù, ma quelle che possono essere messe a posto vanno fatte subito. Invece loro hanno abbandonato questa città e oggi è una città fantasma, è tristissimo, devo dire. Poi era una delle più belle città d'Italia, una città storica, ma no, perché subito dopo il terremoto c'è stato questo grande ondata del Presidente del Consiglio Berlusconi, che andava ogni settimana giù e faceva queste bellissime conferenze stampa molto propagandistiche, e poi c'è stato appunto addirittura il G8 fatto all'Aquila, però poi di fatto invece la città oggi è una città fantasma. E infatti è così, perché hanno pensato di ricostruire altrove, invece lì bisognava subito cominciare a ricostruire lì, non altrove, capisci? Ho capito. Quindi è su Giulia, una studentessa che è una delle, diventa un po' il simbolo di questi. Sì, brava, proprio così, diventa il simbolo di questi studenti. E perché quella che io conosco meglio, perché ho conosciuto i genitori, perché so la sua storia, eccetera. Ma poteva essere anche un altro. E di dov'era Giulia? Giulia era di Arpino, che cioè è una città proprio lì vicino, vicinissimo all'Aquila, studiava lì. Ed era figlia unica oppure aveva dei fratelli? No, una sorella che si chiama Laura, che per fortuna è viva, ma insomma... Certamente per la famiglia è stata una tragedia vera e propria. Sì, perché poi purtroppo quando ci sono i terremoti uno dice tot morti, ma non è che si riesce poi a dare un volto a questi morti. Questo è un po' il suo tentativo. Ecco, brava, l'ha detto. Il mio tentativo è quello di farli conoscere, almeno attraverso una persona, e poi attraverso la sua storia, insomma, anche di tenere viva la memoria. Allora, Festival Nazionale Teatro di Gioia, direzione artistica di Dacia Maraini a Borgo Gioia Vecchia, dal 6 all'11 agosto, con l'ultima serata, una pièce scritta proprio da Dacia Maraini su Giulia, una dei 48 ragazzi, degli 48 studenti morti durante il terremoto dell'Aquila. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Summertime. E noi andiamo al Festival dei Teatri di Confine, dove possono avvenire i teatri di confine, se non in provincia di Asti, in Piemonte, a San Pietro, a Verzano di San Pietro. Aldo Pasquero, perché questo titolo per questa rassegna? Buongiorno a tutti innanzitutto. Ma è perché è un festival che si svolge in un territorio piemontese abbastanza vasto e ai confini di 4 province. Asti, Alessandria, Vercelli e Torino, e sono 47 comuni dove per circa 2 mesi e mezzo, per tutta l'estate, ci saranno spettacoli, incontri e momenti conviviali. E noi sappiamo che questa settimana voi avete in programma intanto il Teatro degli Acerbi, storie di paese, quindi questa sera a Bersaglio di San Pietro, sì. E di che cosa parla praticamente? Di piccole storie che avvengono dentro la provincia italiana? Sì, ma la cosa curiosa è che questo gruppo arriva con un camioncino sgangherato che quasi per incanto si trasforma in un teatro, in un palcoscenico sul quale gli attori e i musicisti raccontano proprio storie che essi hanno raccolto andando di paese in paese. Quindi come vecchi cantastorie, come vecchi saltimbanchi. Che ricordano le tradizioni e le dicerie popolari e le storie che si sentivano nei crocicchi, nelle osterie, nei bar. E in che dialetto è? Dialetto piemontese? No, assolutamente, in italiano, anche se si riallacciano alle storie del Piemonte, però è in italiano. Poi abbiamo mercoledì 10 agosto due spettacoli, uno Due piemontesi a Napoli, sì. Che penso sia abbastanza divertente, no? Ad Bugnano. Quindi abbiamo l'esatto opposto di Totò e Peppino? Esatto. A Milano? Sì, anche perché il tutto si svolge su questo bellissimo belvedere di Albugnano, che è un belvedere che domina l'Astigiano e il Torinese. In 10 sera festeggiano il vino, e allora abbiamo pensato di portare questo spettacolo molto molto bello di Claudio Bovo, il quale ripercorre con molta ironia la canzone piemontese in terra partenopea, crea uno strano miscuglio tra nord e sud molto utile di questi tempi, dove ci sono troppe divisioni, invece andrebbero riscoperte le cose che ci uniscono, le cose che ci fanno parte di un tutto. Ecco, poi insomma il vino in Piemonte è qualcosa di importante, visto che è la regione che produce uno dei vini più buoni del mondo, il Barolo. Allora, si beve dappertutto e si beve soprattutto insieme, lo scopo è questo, no? Certo. Poi avete, sempre mercoledì 10 agosto, io leggo, no? Ad Alfiano Natta, in provincia di Alessandria, Dado, Mon Oncle Le Bussù, giusto? Sì, non bisogna farsi ingannare perché il nome suona italiano, ma è un artista tedesco-canadese che fra l'altro è la prima volta che viene in Italia, noi siamo molto contenti di portarlo. Perché l'abbiamo portato questa settimana? Ma perché questi appuntamenti hanno come filo conduttore la musica e questo strano clown, che è un grande artista di strada, lavora con strani strumenti e dai quali ottiene delle strane esilaranti musiche. No, quindi dopo le storie di paese, dopo l'incontro nord e sud, abbiamo pensato di andare oltre i confini e portare questo artista che suona strani strumenti per creare strane atmosfere estive. Allora ricordiamo, un mese di agosto ricchissimo di spettacoli con teatri di confine, abbiamo capito perché si svolge in 4 province e in 47 comuni piemontesi, quindi c'è sempre qualcosa da vedere, e abbiamo parlato con Aldo Pasquero, che è il direttore artistico. Grazie e buoni spettacoli. Grazie a voi, arrivederci. Per meglio guardare sotto a quelle poche vesti, stringono la vista, il muso si allunga, per meglio annusare l'umore delle cosce, la faccia si storpia in una smorfia orribile, le orecchie si allargano, si tendono per meglio sentire il fruscio di quella pelle, le spalle si torcono per avvicinarsi, conquistare una distanza, setole e nerastre spuntano sulla schiena, mentre le dita deformate a zampe già preparano l'assalto dell'amplesso. Ora sono pronti per la pasticca, una ped uno, ed è lo paradiso. E noi andiamo a Fossalta di Porto Gruaro, a Venezia, dove c'è in scena questa odissea un po' particolare, scritta da Mario Perrotta, con musiche originali eseguite dal vivo, un'odissea che è tra Itaca e il Salento e che ha anche come scopo quello di discernere, di scoprire i pensieri di Telemaco. Ne parliamo proprio con Mario Perrotta, è così? Sì, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Sì, è proprio così. Ho riscritto indegnamente il classico omerico ponendomi dal punto di vista del figlio, cioè della persona che aspetta l'eroe ed essendo figlio forse vorrebbe un padre meno eroe ma più presente. E questo mi sembra che racconti molto il presente, quello che almeno io mi vedo attorno a me, vedo tanti ragazzi spesso abbandonati a se stessi, da genitori che fanno gli eroi perché giocano ancora con la Wii, giocano con la PlayStation, mettono i pantaloni con le mutande fuori come i figli, si depilano le sopracciglia come i figli, sono dei ragazzotti mai cresciuti. E quindi interrogandomi su questo rapporto padre-figlio ho pensato che Telemaco, di cui tra l'altro spesso ci dimentichiamo, perché se alla gente gli si chiede chi è Argo lo ricordano tutti, ma se chiedi il figlio di Ulisse come si chiama non ricorda quasi nessuno. Allora ho pensato che fosse una figura giusta per raccontare questo, anche perché Ulisse rappresenta il primo eroe contemporaneo, mentre gli eroi dell'Iliade sono quasi dei semidei, tutti d'un pezzo. Ulisse in realtà è molto novecentesco. E infatti lo scoprì anche, no, Joyce, perché riscrisse questo capolavoro. Esatto. Quindi questa pièce è un po' sull'onda di Joyce, sulla telemachia, quella che Joyce chiamò la telemachia. Però lì c'era Leopold Bloom che cercava Steven Dedalus, qui invece abbiamo Telemaco che sta nel bar della piazzetta di un paesino del Salento e cerca suo padre. E questo un po'. Sì, perché quello è il mio Salento. Io ho deciso da anni ormai di usare la mia lingua, il mio dialetto, perché penso che ogni italiano abbia nel proprio dialetto la grammatica delle sue emozioni, cioè quando ci arrabbiamo, quando siamo contenti e pensiamo in dialetto, ammesso che noi lo si abbia. Ed essendo per me il teatro qualcosa che veicola emozioni, ho scelto di usare la mia lingua e di portare ciò che la mia terra mi ha dato, essendoci vissuto. E allora ho ambientato tutto su una spiaggia che tra l'altro io ho vissuto veramente da bambino, dove c'era questo contrabbandiere di sigarette che viveva in un gabbiotto sulla spiaggia abbandonata. Non è il Salento di oggi dove tutti vogliono venire, super attrezzato, quello delle spiagge tutte perfette, esatto, dell'immaginario oramai italiano. Esatto, invece era un Salento sotto Eboli negli anni 70, per cui eravamo veramente dimenticati da Dio, ma si stava secondo me molto meglio. E su questa spiaggia c'era sto gabbiotto con questo contrabbandiere di sigarette che apparentemente invece vendeva cozze, ed era un ex ergastolano, cioè un ex galeotto, perché aveva ammazzato moglie e amante avendo ritrovati insieme nel letto, si era fatto 20 anni di galera, c'aveva i tatuaggi, aveva il fucile sulle spalle, e per me bambino era una figura inquietante ma affascinante, perché tra l'altro non parlava mai e se diceva una parola era terrificante. E io ho immaginato che questo Antonio delle Cozze, perché così si chiamava, sia l'interprete tra me, Telemaco, che aspetta il padre, e il mare che è l'unico collettore delle storie di chi lo attraversa, quindi conosce tutte le storie di Ulisse. Ecco perché il mio Telemaco sa cosa sta facendo suo padre in giro per il mondo e lo detesta per questo, perché dopo 20 anni è ancora lì che gira, che fa il vagabondo, che fa l'eroe, dimenticando a casa una moglie e un figlio. Quindi un Telemaco un po' particolare. Ecco, ma che cosa rimprovera un ragazzo di oggi ai propri genitori? Di non esserci col non si tratta di quantità di minuti, di ore, di tempo, si tratta di qualità, di non esserci qualitativamente, perché lavorano quasi tutti a tempo pieno, si ritorna a casa, anzi dopo il lavoro si va o in palestra o l'happy hour o la lezione di inglese o il briefing ulteriore di lavoro, eccetera eccetera. Insomma, si torna a casa alle 8, alle 9 la sera, se ha la forza si cena, se no si mangia qualcosa così, e poi ci si sbatte davanti al televisore o alla Wii dei figli, alla PlayStation dei figli, togliendola ai figli, per cui si è completamente assenti. E questo credo che sia ancora più devastante, perché almeno l'Ulisse che racconto io manca anche fisicamente, ma avere un padre e una madre lì ma non presenti perché devastati da come viviamo. Io penso proprio che sia il nostro modello occidentale che sia sbagliato. Sia per questi ragazzi abbastanza spiazzante, perché credo che a 15 anni, a 16 anni, tu cerchi qualcuno che ti dica di no, no, questo non si fa, proprio per poterlo contrastare e poter fare la cosa di, diciamo, di soppiatto e derogare alla regola. Qui non c'è più quasi nessuno che pone regole. Questi ragazzi sono completamente spiazzati dall'avere la propria vita nelle mani senza nessuno che gli dica no, adesso sto facendo ogni erba un faccio. No, però va bene, come ragionamento mi sembra molto molto pertinente. Allora, per scoprire un nuovo Telemaco, per scoprire un Telemaco nel Salento che appunto cerca il proprio padre ma in maniera un po' diversa di quello che è il capolavoro di Omero, noi possiamo andare questa sera a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, alle 21:15 per lo spettacolo di Mario Perrotta, appunto Odissea. Grazie. Grazie a voi. Summertime. Senso attribuisce ancora alla funzione dello scrittore? Ma senso nessuno. Mi sembra una cosa completamente priva di senso. Io continuo a essere scrittore per forza di inerzia, per abitudine. Ho cominciato a scrivere poesie a 7 anni e mezzo e non mi sono chiesto perché lo facessi. Ho continuato a scrivere per tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza ed eccomi qui a scrivere ancora. Quindi l'unico senso possibile è un senso esistenzialistico, cioè l'abitudine a esprimersi, così come c'è l'abitudine di mangiare, di dormire. I limiti sono quelli linguistici, cioè io come scrittore italiano sono molto limitato. Preferirei essere uno scrittore in lingua swahili, che è la 12ª lingua del mondo ed è parlata nel Kenya, in Tanzania, nel Congo, eccetera. Questa sera ad Ascoli Piceno ci sarà proprio una serata, Realtà e Verità, una serata per Pasolini in 21 movimenti e chiusura, interpretata tra gli altri da Alessio Boni, al quale do il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ciao, ma che cosa vuol dire per un attore come te interpretare o leggere degli scritti di Pasolini? Ma mi ha colpito perché sentivo, tra l'altro abbiamo anche noi 4 clip dentro lo spettacolo in cui ci sono delle interviste con Moravia, con Ungaretti e anche l'imprecazione appunto al funerale quando è stato ammazzato, eccetera, e anche Enzo Biagi che lo intervista. Quindi sentirlo, mi ricordo questo passo, e sentire un Pasolini che si può, veramente, io uso pochissime volte questo termine, si può utilizzare, si può su di lui sicuramente dire che è un genio. Sentirlo dire che è limitato come scrittore italiano fa sorridere, perché la modestia e l'umiltà davanti a questi grandi fa sempre, non lo so, mi rimescola il sangue, non so neanche come definirlo, perché decodificare, poter parlare di una persona in questo modo, e lui che dice non sono un grande scrittore italiano, umilmente, modestamente, senza falsa piaggeria, senza falsa modestia, è una cosa enorme, quando tutti quanti oggi sono dei tuttologi e cercano di scrivere e di dire la propria e pensano di essere dei grandi Dostoevskij. Questo la dice lunga per come era, a mio avviso, lungimirante, ed era già, aveva già previsto tutto, era già una profezia vivente, aveva già cioè era una persona che aveva compreso quello che avrebbe fatto lo sfacelo dell'Italia. Se tu leggi i suoi scritti alla Mia Nazione del 58, comunque anche Profezia del 70 o altri scritti del 64, eccetera, sembrano, ma ti posso garantire, sembrano degli scritti giornalistici dell'altro ieri o di settimana scorsa, perché non puoi credere che sia una cosa così incredibile, cosa aveva già previsto e tutto quando. Cosa fanno i geni? Anticipano 50, 100, 200 anni prima quello che i comuni mortali come me capiranno poi dopo. Ah, ma quello che anche noi continuiamo a capire solo adesso, ricordati che lui è colui che ha definito il palazzo, no? Ancora sì, oggi palazzotti. Nel giornalismo politico si usa questo termine, cioè la casta è figlia del palazzo, no? Dentro e fuori il palazzo, i figli del popolo, ti ricordi quando ci fu il terrorismo che lui disse, ma veramente i proletari sono i poliziotti che muoiono. Oggi potremmo dire sono i ragazzi che vanno in Afghanistan. Allora, senti, che cosa succede stasera ad Ascoli Piceno? Che cosa fate tu, guarda, e Marcello Pryor? Io e Marcello Pryor, che ci conosciamo da 20 anni dalla scuola, dal nostro maestro Orazio Costa di Giovangigli, abbiamo cercato di fondere una unica voce in due voci, cioè in due corpi, cioè insieme cerchiamo di non leggere una poesia una e poi l'altro, ma di fondere e di miscelare le parole, cioè diventare un suono unico. È un esercizio che facevamo mentre con Orazio Costa in Accademia si facevano i cori e ci è rimasto dentro come germe. Una volta, due o tre anni fa, mi ha detto: perché non proviamo? Abbiamo visto che prende questo suono, perché la poesia è molto difficile da farle arrivare oggi, cioè la poesia è un atto intimo, soprattutto oggi, perché nel 1912 magari, comunque nella fine dell'Ottocento, in cui la poesia imperversava, ascoltare un dicitore, un fino dicitore, avevi una soglia d'attenzione molto alta e ci stavi attento, perché si parlava in quel modo e la gente colta aveva voglia e necessità di sentire la poesia, la musica classica, il melodramma e quant'altro. Oggi, ma non sto additando nessuno, non sto facendo della retorica, oggi la soglia d'attenzione è molto, molto, molto più bassa. Siamo abituati ai videoclip, a internet, a video pazzeschi, a filmati con tipo Quentin Tarantino, quindi è molto tutto più veloce, molto più quindi tenere 1 ora e 10 di poesia di Pasolini è molto, molto arduo, ma anche per un finissimo dicitore, proprio perché è il cellulare, è il parcheggio in seconda fila, è la multa, è le cose. Prima di entrare dentro una ieraticità quasi sacrale come la poesia, come dovrebbe essere, è molto difficile staccare la testa dalla società in cui siamo. Quindi abbiamo cercato di farla entrare quando Moravia impreca proprio all'inizio contro chi abbia ammazzato Pasolini, perché l'hanno ammazzato nel 75 come tutti quanti sappiamo, anche se non si sono trovati ancora i colpevoli. Poi entriamo miscelando queste 21 poesie che abbiamo scelto, cercando di far venire fuori più l'essenza di un Pasolini e di poesie abbastanza, non ti dico inedite, però poco conosciute. C'è solo l'ultima che è conosciutissima, che è Supplica a mia madre, e finiamo con quello. Ci sono quattro interviste tra Ungaretti, appunto, come diceva Enzo Biagi, lui che intervista Ungaretti, Moravia che imprega al suo funerale, e un altro momento che ricordi la voce di Pasolini. Lo vogliamo ricordare perché credo, anche se sono piccole pillole, che siano importanti per il popolo italiano, che siano importanti da dove veniva questa coscienza della nazione, la coscienza dell'etica. Come diceva lui, poi tra l'altro lo diceva fortemente, la poesia è per pochi ed è anche giusto che sia così. Allora io però penso a questi pochi, è come andare in libreria, va bene, è giusto che ci siano le riviste, è giusto che ci siano i fumetti, è giusto che ci sia Vanity Fair, per amor di Dio, però io voglio anche Dostoevsky, voglio anche Pasolini. Se in una libreria non c'è Dostoevsky e Pasolini mi permette di leggere poesie così, c'è qualcosa che non va. Questa è un po' l'Italia di oggi, ed è difficile trovare la possibilità di andare a beccare Dostoevsky e Pasolini. C'è oramai un po' il qualunquismo che serpeggia, che mi fa male, tutto qua. No, poi tra le altre cose tu hai detto non ci sta più attenzione, no, per la poesia, ma anche per ascoltare qualcosa. Noi facciamo radio, lo sappiamo molto bene, nel senso che l'immagine è così preponderante in questo mondo che è molto difficile fare uno spettacolo così. Senti, qual è il verso che ti piace di più? So che è difficile perché in uno spettacolo così ne declamate talmente tanti che è molto difficile, però quello lì che ti svegli la mattina e ci pensi. Parlando della vecchiaia, e forse si riferiva a se stesso, c'è una frase molto, molto forte, poi lui era così proprio anche fisicamente, che mi rimane in mente, me lo ricorda molto, è un'anima secca che se ne va dal mondo. Aveva già previsto anche la sua morte, e la scrisse poco tempo prima. Quindi tu non credi che all'idroscalo di Ostia tutto sia stato chiarito riguardo la sua morte? Ti basta la risata come risposta? Sì, sì, assolutamente sì. Però poi alla fine, purtroppo la sua morte ci insegna, ma anche recentemente gli attacchi agli omosessuali ci insegnano che l'omofobia in Italia non è finita. Ma non finirà mai nulla finché c'è questo crollo dell'etica, anzi si ritornerà alla barbarie, credo. Si è arrivati a un picco di coscienza e di civiltà che poteva, dopo la Seconda Guerra Mondiale, poteva sembrare abbastanza interessante, anche molto molto sensibile nei confronti, ti ricordi i 50, 60, ciò che, il cambiamento che ha avuto l'Italia in modo spaventoso, il referendum, la donna ha potuto votare, ed era assurdo che non votasse fino agli anni 50, poi contro l'aborto, poi per il divorzio, tante cose, si è raggiunto un picco e poi dopo adesso c'è una discesa libera all'imbarbarimento. Sembra quasi che più butti mostri in prima pagina e più ci sia la sagra della volgarità e più si vendano copie e si facciano anche audience. Non so come mai, c'è un momento di regressione e la nostra crisi economica, o comunque non è solo in Italia, fa parte dell'Europa, fa parte del mondo, nel mondo occidentale ovviamente, non quello subsahariale di altri tre quarti del mondo che purtroppo non fa parte di noi, è un altro mondo. Ecco, quella crisi lì non credo sia un fatto dovuto solo a spendere, ma è una crisi etica. È una crisi morale dell'uomo, perché nel momento in cui tu fai una cosa perché mi servi a quest'altra e poi lo fai solo per i soldi, cerchi di mangiare su quell'altra e fare la cresta a quell'altra, alla fine ti ritorce contro. Come si fa a non capire che sei tutti interconnessi? Come si fa a continuare a sbagliare in questo modo così ottuso, a pensare proprio al giardino? Come si fa a non pensare che il nucleare in Giappone, se si fonde, praticamente solleva tante di quelle particelle negative e radioattive che rimangono sospese nell'atmosfera e la Terra gira attorno in 24 ore, in 24 ore quelle particelle ce le becchiamo anche noi in Italia. Come si fa a non capire tutto questo? Pensano che la Terra sia ferma, sia su una piattaforma. E poi comunque abbiamo votato, hai visto, per il referendum, e gli italiani ogni tanto hanno questi guizzi. Un'ultima domanda, allora, due cose brevissime. Primo, se tu avessi conosciuto Pasolini, in quale film avresti voluto recitare, in quale film dei suoi? Ma a me piace tantissimo un cortometraggio che pochi conoscono, che si chiama Cosa sono le nuvole, con Ninetto Davoli, è un grandissimo Totò, c'è anche un Domenico Modugno che canta ed è una cosa abbastanza sconosciuta, e mi sarebbe piaciuto anche nella ricotta tantissimo, però più che altro questo Cosa sono le nuvole, perché onirico, no? Poi c'è un Totò molto onirico, invece volevo chiederti, farete altre date oltre al Teatro Romano oggi alle 21:30? Allora, dopo stasera ci fermiamo per quest'estate, penso di poter riprendere a settembre, ma siamo ancora, sai, le date, conciliare, c'è tutta una serie di cose, ma noi speriamo allora che lanciamo questa sfida a chi ci sente, a qualche impresario teatrale, di assolutamente prendere realtà e verità, una serata per Pasolini in 21 movimenti e chiusura con Alessio Buoni, grazie di essere venuto qui a Summertime, Marcello Prior alle 21:30 questa sera ad Ascoli Piceno al Teatro Romano. Ciao Alessio. Ciao a voi, vi aspetto stasera. Summertime. E noi adesso andiamo al Sannita Teatro Festival a Pietra Abbondante in provincia di Isernia. Si è aperto ieri con un concerto di Domenico Scarlatti e il flamenco, e oggi invece avremo una pièce di Plauto, Truculentus, con Eleonora Brigliadori. Ma sono anche moltissime le novità di questo festival, che tocca anche i classici greci e latini. Ne parliamo con Mario Baldini. Buongiorno. Buongiorno. Come sta andando e che cosa avete in mente per questi prossimi giorni? Stasera avrete Eleonora Brigliadori. Esatto, che è in fin di conti un classico dei classici, perché Tito Macio Plauto è veramente una cosa divertente, ed è l'unica divertente di questo cartellone, perché abbiamo tentato di portare un po' più di cultura nelle nostre cose, perché le cose ridanciane sì, ma poi bisogna anche fare un po' di cultura, perché sennò... Truculentus non trova delle affinità con il mondo di oggi? Ma non molto, però c'è il fatto di essere divertente, questo già funziona, diciamo. Però Truculentus è una commedia strana di Tito Macio Plauto, perché lui di solito ha sempre scritto per gli uomini, per i vecchi, per i servi, mai per la donna. E in questo invece ci hanno infilato questa donna strana, che poi sarebbe Eleonora Brigliadori, la quale è una meretrice che tiene una casa, che in un certo momento riesce anche a imbrigliare gli uomini di questo villaggio, e lì succedono cose che poi si vedrà. Truculentus è anche nome per truculento, bravo, c'è una definizione che vuol dire anche bravo, molto molto remota. Insomma, tra Plauto, Petronio Arbitrio, sì. Insomma, lei non riscontra che bene o male questi scrittori romani abbiano poi un po' gettato l'idea di quello che sarebbe stata la nostra nazione 2000 anni dopo? Sì, in ogni modo questi qui sono un po', come dire, sono fotocopie, tutto viene dalla Grecia, perché è truculento, tutto quel ciò che ha scritto Plauto, tutto quello che hanno scritto quelli prima, perché sono un po' tutti fotocopie. Di modo bene, io non amo molto il latino, purtroppo. Ah, ecco, lei è più, ama più il greco. Poi avete Domani, Odi et Amo, l'amore al tempo questo. Degli antichi, con Edoardo Siravo. Edoardo Siravo, che è un mio vecchio amico di battaglie a Siracusa, pensi un po'. È arrivato che aveva 18 anni, mi ricordo, adesso ne ha 60, e io ne ho qualcuno di più. Poi avete Antigone di Sofocle, Antigone, con Vanessa Gravina. Con Vanessa Gravina, Cornardo Ninchi, Luca Diagini e Giulio Farlese. È una bella compagnia, molto molto piena. Antigone noi l'abbiamo fatta già, penso, una decina di volte. Pensi che questo è il 37esimo anno di questo festival. Dunque non è che è nato ieri, eh? No, infatti ci sono da qui fino al 16 agosto ci sono veramente dei bellissimi spettacoli. Poi abbiamo Alessio Di Clemente con Suerte. Questa sarà una chicca, perché io Alessio Di Clemente lo conosco come attore, però a lui si è fatto più conoscere come ballerino, perché ballando sotto le stelle, via scorrendo. Però lui è un bravissimo attore, molto bravo, poi ha fatto delle belle fiction, dunque è conosciuto specie dal pubblico femminile. Cassandra e Re invece... Cassandra e Re, anche questo è un'altra cosa molto bella che abbiamo già fatto l'altro anno noi. Chiudete con Ulderico Pesce, con Medea da Euripide a Pasolini, quindi ha voglia qui. Ulderico Pesce, noi lo conosciamo, il nostro amico ci riserva sempre delle sorprese. Io lo prendo tutti gli anni, proprio per questo, perché non è mai la tragedia. E non è mai banale. È raccontata da un cantastorie, diciamo, no? Ed è bellissimo. Io ho fatto l'altro anno l'Edipo Re, abbiamo fatto con lui, ed era una cosa meravigliosa, perché ogni tanto la catarsi arrivava, no? Della tragedia. Però lui la faceva passare come una commedia, come una cosa da scherzo, da ridere. E la gente tanto se la ciucciava, perché sennò non sarebbe venuta magari. Sannita Teatro Festival a Pietra Abbondante dal 7 al 16 agosto, quindi iniziato ieri, si protrarrà per tutta la settimana, grazie a Mario Baldini, l'organizzatore. Non mi raccomando una cosa sola, l'orario, ore 19, inizio dei spettacoli. Alle ore 19, quindi attenzione, iniziano un po' prima. Grazie. Sì, arrivederci, grazie. Arrivederci. E adesso noi andiamo ad Alburni Jazz, sì, per i patiti di questo genere che tanto ci fa sognare delle atmosfere a Serre in Salerno, che si apre proprio questa sera. Buongiorno a Mimmo Catalano, allora noi chiediamo subito al direttore artistico che cosa avete in programma. Salve, buongiorno. Questa è la 18ª edizione di Alburni Jazz, che si svolge a Serre in provincia di Salerno, e abbiamo un programma molto ampio. Il nostro festival è un festival internazionale di jazz, blues e contaminazioni, quindi oltre al genere jazz troveremo anche altri generi, quindi è un programma che può attirare diverse persone, per in quanto in questo programma si possono rivedere quelli che sono i generi, quindi i gusti di diversi appassionati. Intanto iniziate stasera con Peppe Servillo. Sì, questa sera iniziamo con Peppe Servillo e la nuova band. In realtà Peppe Servillo, tutti lo conoscono come la voce degli Avion Travel, ha creato una nuova formazione dopo lo scioglimento di questo gruppo, quindi una nuova formazione tra cui ci sta anche Tanne Manche la Vite, Javier Girotto, quindi una nuova formazione in cui proporrà i vecchi successi degli Avion più un nuovo progetto che porterà quasi sicuramente all'uscita di un nuovo lavoro in autunno. Proseguiremo poi il giorno 9 con I Neri per Caso e Alan Clark. Per poi proseguire, però tengo a precisare una cosa, che tutti i concerti però dei Big saranno preceduti da artisti demo selezionati direttamente dal programma demo di Radio 1. Poi il giorno 10 proseguiremo avremo un quintetto jazz presieduto da Ron. Il giorno 11 invece avremo Nathalie e a seguire Pedro Magoni e Ferruccio Spinetti. Per concludere poi il giorno 12 con Luca Madonnia e un quartetto d'archi, a seguire ancora Francesco Cafiso e Dino Rubino 2, con un gran finale con Alex Britti. Grazie. Che ora ci sono gli spettacoli? Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21.45. Perfetto, grazie. Grazie a voi, grazie. 23 anni e non sentirli, sì, proprio così, si è aperto il 5 agosto ma prosegue fino al 15 il Festival Nazionale di Lega Ambiente a Ripescia in provincia di Grosseto. Allora, io leggo che è un eco festival, addirittura eco live earth, insomma tutto molto eco e tutto molto live. Ne parliamo con Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festa Ambiente. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa insegnate durante questo festival? Che cosa succede? Ci sono veramente tantissimi appuntamenti. Sì, è un festival che si svolge ormai appunto da 23 anni, è il Festival Nazionale della Lega Ambiente, dove cerchiamo di far sì che ci si possa divertire e nello stesso tempo si possa riflettere sulle principali tematiche ambientali e ecologiche, quindi dibattiti, conferenze, incontri da una parte, ma anche grande musica con appunto tutta una serie di artisti, dalla banda Bardò a Steven Marley, da Elisa a Savina Guzzanti, da Paolo Belli a Mario Biondi, che appunto saranno presenti nel palco spettacoli, incontri sulle tematiche più significative e importanti che verranno realizzate nell'ambito del festival, dalle energie rinnovabili appunto quindi alla green economy, dalla partita che riguarda il turismo sostenibile a tante altre tematiche, una grande area dedicata a bambini, un festival dedicato al cinema che è un festival nel festival e poi soprattutto tanto divertimento in chiave ecologica per far capire che è possibile risparmiare energia, risparmiare acqua, modificare i propri stili di vita per un ambiente più sostenibile. E allora andiamo a vedere un attimo cosa fate voi per dare il buon esempio a questo festival. Intanto 90% di raccolta differenziata, sì. Poi non si utilizza plastica. L'acqua è servita solo in caraffa e i piatti bicchieri sono esclusivamente in ceramica, vetro e amido di mais. No, amido di mais mi manca, cioè ceramica e vetro sono abituata, ma amido di mais come? Amido di mais sono praticamente i piatti e i bicchieri compostabili, sono realizzati in amido di mais e quindi possono essere messi nel contenitore dell'organico. Noi non abbiamo all'interno del festival, che viene frequentato da 80.000 persone, la plastica, l'abbiamo bandita e riusciamo a realizzare ristorazione, attività di vario tipo senza l'utilizzo della plastica. Questi bicchieri, questi piatti in amido di mais vanno nell'organico. L'acqua è solamente quella imbroccata, non abbiamo bottiglie di plastica, utilizziamo alimenti e prodotti biologici e a chilometro zero, cioè della Maremma, che è un'area incontaminata, bellissima, particolare d'Italia, che invito tutti a visitare, e nello stesso tempo facciamo anche molto risparmio energetico e utilizziamo le rinnovabili. Il nostro palco, il palco appunto di Festa Ambiente, dove si esibiscono tutti gli artisti, è un palco fotovoltaico che di giorno assorbe energia dal sole e poi la notte la ricede per far sì che l'amplificazione e l'illuminazione del palco sia alimentata da energie rinnovabili. Ecco, poi leggo che Festa Ambiente abbatterà le emissioni di anidride carbonica prodotte grazie all'accordo con Anno Zero CO2 tramite la piantumazione di alberi in India. Cioè, che cosa fate? Cosa succede? Prendete gli alberi e li piantate in India? Quali alberi pianterete in India? Ci può spiegare? Ci sono. Praticamente noi abbattiamo il più possibile le emissioni del festival. Quello che comunque non riusciamo a battere e quindi viene emesso in atmosfera, lo compensiamo tramite la piantumazione di una quantità di alberi che viene calcolata, che ci azzera completamente l'emissione, perché gli alberi assorbendo la CO2 compensano, e lo facciamo in un'area dell'India dove noi solitamente ogni anno facciamo questo tipo di intervento di compensazione dell'anidride carbonica che produce il festival. Allora, noi siamo in vacanza, 2-3 consigli per vivere una vacanza in modo ecosostenibile. Il la cosa importante è mangiare prodotti biologici il più possibile, non utilizzare l'automobile ma utilizzare le gambe e la bicicletta, e soprattutto cercare di fare in modo che nella vita di tutti i giorni l'acqua e l'energia siano risparmiate il più possibile. Queste sono piccole cose che però, quando si va via per esempio da questo festival, si portano via come bagaglio, e poi i piccoli e gli adulti le applicano in casa propria. Allora ringraziamo Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festa Ambiente. Ricordiamo che per chi fosse interessato a vivere in modo eco-live, di andare a visitare Ripescia in provincia di Grosseto, dove questa sera tra le altre cose suoneranno i Modena City Ramblers, tanti concerti, tanti dibattiti ecosostenibili. Grazie. Grazie a voi, il nostro sito è www.festambiente.it. Ciao. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione, l'appuntamento è a domani.